24 mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 38 secondi inizia la terza parte di 24 mattino. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia, Maria Latella, eccoci, buongiorno. Buongiorno ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Chissà se sono ancora affascinati dai nostri commenti post elezioni, però penso di sì, perché per esempio ieri, mentre stavo aspettando di ritirare delle analisi mediche, sentivo delle signore che parlavano le une con le altre, dicevano: oh, io sono rimasta fino alle 2 del mattino a vedere i risultati delle elezioni in Emilia e in Calabria. Quindi forse non è vero che solo per addetti ai lavori tutta questa chissà. 349-238-6666. 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio. Io ti dico la mia per quel che vale. Io penso sia già arrivata l'ora di iniziare, ricominciare a pensare ai dossier concreti. E però anche fare un po' di analisi su quello che è successo nelle urne. Perché serve per capire utile, un po' anche dove va il nostro paese. È utile. Oh, a proposito di addetti ai lavori, ne abbiamo uno che è Lorenzo De Sì, ordinario di scienza politica e direttore del Centro Italiano Studi Elettorali della Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno Desio, benvenuto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua. Allora, avete fatto una bella analisi voi, eh? Prego Maria, inizia tu. Allora, professor Desio, anche io sono rimasta stupita, sorpresa dal dato che emerge dall'analisi che è stata condotta dal Luis Centro Italiano Studi Elettorali, perché smentisce quello che noi giornalisti anche abbiamo scritto per tanti anni, vale a dire che la classe operaia, o quel che resta della classe operaia, che comunque in Emilia Romagna è ancora tanta roba, votava Lega, il che è stato vero senz'altro, ma sembra non essere più vero, almeno in queste elezioni. È così? La classe operaia è tornata a votare Partito Democratico? Ma allora, non l'avevate scritto solo voi che la classe operaia non votava per il Partito Democratico, non votava per la sinistra, perché era un dato che in realtà era abbastanza reale negli ultimi anni, soprattutto da quando Lega e 5 Stelle avevano sfidato i partiti tradizionali, i blocchi tradizionali, e quindi avevano un po' scompaginato le carte. E abbiamo invece trovato in queste elezioni in Emilia-Romagna un risultato sorprendente, perché abbiamo, utilizzando un'indagine campionaria con delle interviste a un campione fatte negli ultimi giorni prima delle elezioni, siamo andati a analizzare il voto per categorie professionali e abbiamo visto una sorta di ritorno di una certa polarizzazione sociale. Io vi dico, le tre categorie che hanno votato più nettamente per Stefano Bonaccini a sinistra sono studenti, operai e disoccupati, mentre le tre categorie più nettamente per la Borgonzoni erano liberi professionisti, casalinghe e imprenditori. Quindi l'idea è proprio di un ritorno a una contrapposizione che avevamo visto per certi versi già presente nella Seconda Repubblica, all'epoca di Prodi contro Berlusconi, però così netta forse addirittura nella Prima però, Repubblica. Però professore, questi studenti, operai e disoccupati erano anche il bacino del Movimento 5 Stelle, che prendeva tanti voti in Emilia Romagna, invece qui pare che 4 su 10 degli ex grillini abbiano votato PD, Bonaccini. Infatti questo è probabilmente un processo di riallineamento. Noi quello che abbiamo visto ieri nel risultato è una nuova bipolarizzazione, quindi un ritorno verso, che poi è abbastanza ovvio in queste elezioni regionali, perché le elezioni regionali sono elezioni in cui il presidente si elegge col maggioritario, quindi sono solo i primi due schieramenti a essere competitivi, però anche la politicizzazione dell'elezione, il fattore Salvini e il fattore Sardini hanno favorito uno spostamento o verso destra o verso sinistra, e l'impressione è che quei ceti più deboli, più messi in crisi dalla crisi economica, che si erano rivolti negli ultimi anni al 5 Stelle, dovendo scegliere, si siano spostati verso il centro-sinistra, verso Bonaccini. Il che sarebbe dimostrato, Desio, anche dalle analisi dei flussi elettorali che stanno circolando in queste ore, no? Che dimostrano abbastanza nettamente come gli ex elettori del Movimento 5 Stelle si siano spostati su Bonaccini in questa estrema polarizzazione che c'è stata in questo voto. Sì, qui bisogna dire un elemento elemento importante. Questo esito tutto sommato non era così inatteso. Perché? Perché il 5 Stelle all'inizio del suo successo nel 2013 e poi nel 2018 aveva raccolto voti in modo trasversale, da sinistra e da destra, in un momento in cui erano in crisi sia la leadership del centro-sinistra ma anche quella del centro-destra, perché era l'eclisse della leadership di Berlusconi. Con l'irruzione di Salvini, che dal 2014 in poi ha rivitalizzato la leadership del centrodestra, noi avevamo già osservato che una parte dei voti del 5 Stelle, quelli di elettori che si collocavano più a destra, era ritornata nei lidi del centrodestra e quindi era stata un po' riassorbita da Salvini. Quindi l'aspettativa che avevamo era che gli elettori ancora rimasti nel Movimento 5 Stelle, che ci sono tuttora, abbiano opinioni più di sinistra. Quindi non è stato così sorprendente che in questo voto abbiano scelto Bonaccini. Mi permette solo una cosa, Desio? Ci sono arrivate un paio di osservazioni dagli ascoltatori, non so, è chiaramente una valutazione più politica, se vuole, questa, no? È bastato liberarsi di Renzi per recuperare i voti della classe operaia, e un altro ci scrive: è così difficile capire che a causa di Renzi molti di noi hanno votato 5 Stelle in passato, ci scrive Stefano da Carpi. Io non so se ci sia un fattore di questo tipo, cioè un rispostamento a sinistra del Partito Democratico rispetto alla leadership di Renzi, che ha condotto le persone, no, a rivotare da quella parte. Ma dai dati che noi abbiamo è sostanzialmente così. Questi ascoltatori dicono cose sono in linea con i dati che noi abbiamo. Noi abbiamo fatto uno studio sul 2018 che intitolammo Il ritorno del voto di classe ma al contrario, in cui mostriamo che il PD renziano del 2018 aveva il massimo dei voti nelle classi più alte e aveva perso voti, già aveva i voti più bassi nelle classi più basse, diversamente per esempio da quello del 2013 di Bersani, che invece era molto interclassista. Allora sì, la strategia di Renzi è stata una strategia che era volta a cercare elettori moderati, quindi si rivolgeva a ceti più dinamici, liberi professionisti, imprenditori. Il problema è che storicamente quei voti non sono mai arrivati in grande numero, perché erano comunque voti di centrodestra non disposti a votare per il PD, e in compenso il PD però perse una parte di elettori di centrosinistra, soprattutto verso il Movimento 5 Stelle. Ora, questo è solo un voto regionale, quindi non sappiamo. Quindi bisogna vedere poi in chiave nazionale come sarà. Senta, professor Desio, non si parla abbastanza, secondo me, della Calabria. Perché comunque siamo in una regione con delle caratteristiche significative, una fortissima presenza purtroppo della criminalità. E quale criminalità? L'andrangheta, che pervade, l'abbiamo visto con le inchieste del procuratore Gratteri, pervade la politica, pervade tante fasce sociali. Certo. Mi ha stupito un'analisi che abbiamo letto, mi pare, sui giornali ieri, secondo la quale appunto il modesto risultato dei 5 Stelle non è stato in nessun modo collegato al fatto che tanti in Calabria abbiano chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, vale a dire l'elettore si è preso il reddito di cittadinanza ma poi i 5 Stelle non l'ha votati, è così? Allora, noi abbiamo, mi vengono in mente, nelle elezioni europee dell'anno scorso noi trovammo una relazione con strumenti statistici tra le province dove c'erano state più domande al reddito di cittadinanza e una maggior tenuta elettorale del 5 Stelle. Quindi l'anno scorso la questione era politicamente rilevante e trainò in un certo modo, cioè permette al 5 Stelle di mantenere i propri voti. In questa elezione è chiaro che ormai questo succede però con tutti un po' i provvedimenti, quando escono dall'agenda politica quotidiana la rilevanza diventa minore, e poi si tratta di un voto regionale in cui, non dimentichiamoci, la competitività del candidato del 5 Stelle era praticamente nulla, perché alle elezioni regionali bisogna competere per il primo posto, per il posto di presidente, quindi sono i primi due candidati. Quando si vede dai sondaggi che il terzo candidato del 5 Stelle non era affatto competitivo, è chiaro che si crea un effetto per cui prende molti meno voti anche di persone che lo potrebbero voler votare. E anche questo mi pare uno spunto interessante, è il fattore Bonaccini, oggettivamente, il fattore Bonaccini versus Bergonzoni, questo appesato, il fattore in realtà in Calabria, il fattore Callipo versus Santelli, che evidentemente ha funzionato. Senta, abbiamo letto un'analisi che non è male, a proposito di Calabria che citava Maria, abbiamo letto un'analisi niente male questa mattina in rassegna stampa di Antonio Polito, no? Il quale dice, in Calabria Salvini ha di fatto dimezzato i voti rispetto alle europee. La candidata era una candidata di Forza Italia. In Puglia e in Campania, e quindi altre due regioni del Mezzogiorno, ci si prepara a candidati che presumibilmente non saranno della Lega, ma saranno di Fratelli d'Italia. In Puglia potrebbe essere Raffaele Fitto e in Campania potrebbe essere appunto Forza Italia. Insomma, si ha l'impressione che questo smottamento, questo tentativo di prendere il sud di Salvini, anche a questo voto in Calabria, si sia un po' arginato. Ma sì, in realtà già nelle elezioni europee dell'anno scorso c'erano degli interrogativi, perché la grande affermazione di Salvini al sud era sostanzialmente quella dell'unico leader rimasto del centrodestra, che quindi era diventato punto di riferimento per gli elettori di centrodestra, ma anche, questo va sottolineato, al sud, per il ceto politico locale di centrodestra. Infatti nella Lega di Salvini all'Europea 2019 erano presenti molti candidati locali che erano in generale candidati moderati. Noi avevamo l'aspettativa che magari in elezioni successive questi candidati avrebbero potuto optare anche per esempio Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che sta crescendo e sta mostrando una buona capacità di iniziativa, o anche per Forza Italia, come nel caso della Calabria. Quindi questa non era una dinamica inaspettata. È chiaro che è la combinazione dei due risultati a essere problematica per Salvini, perché il risultato della Calabria poteva essere visto come un risultato particolare, ma l'insuccesso in Emilia non crede che lo sia, professore. In Emilia Forza Italia ha preso il 2,5%, in Calabria, dove, come qualche ascoltatore anche ieri ci faceva notare, contano molto le relazioni, è chiaro che il ceto politico moderato locale si è consolidato intorno a una forza che è lì da tanto tempo come Forza Italia. Tra l'altro mi dicevano che questa volta, a differenza delle europee, la Lega ha selezionato con maggiore attenzione il proprio personale da candidare, e questo ovviamente conta in una regione, ripetiamolo, non possiamo far finta che non sia così, fortemente influenzata da questioni che esulano dalla politica e hanno attinenza con altro genere di cose, cioè con la criminalità. Poi è giusta questa osservazione. Poi nel concreto bisogna dire anche un'altra cosa: la Calabria è caratterizzata da una politica basata su legami personali, non solo e non necessariamente con relazioni di tipo clientelare o legate alla criminalità, è semplicemente una politica in molti casi basata su forti legami personali con specifici esponenti politici. Ma perché io vedo un collegamento con l'Emilia Romagna? Perché questi esponenti politici moderati al sud cercano ovviamente di rapportarsi con quello che percepiscono il cavallo vincente all'interno dell'area di centrodestra, è per questo che nell'Europea del 2019 si rivolsero a Salvini. Il fatto che la vittoria in Emilia non sia arrivata indebolisce un po' questa posizione della Lega come cavallo vincente, e quindi prefigura il ritorno di un centrodestra più plurale. È per questo che avremo presumibilmente queste candidature più variegate, anche legate a Forza Italia o forse anche legate a Fratelli d'Italia. Quindi è chiaro che Salvini al sud dovrà pensare a una strategia più a geometria variabile, e quindi io vedo sul piano dello scenario politico nazionale sarà meno un centrodestra egemonizzato dalla Lega e più un centrodestra plurale. Grazie a Lorenzo De Sio per essere stato con noi, ordinario di scienza politica e direttore del Centro Italiano Studi Elettorali, CISE, della LUIS Guido Carli di Roma. Ci fermiamo, una pausa, ci ritroviamo subito dopo. Avremo tra gli altri il vice ministro alle infrastrutture e trasporti ed esponente rilevante del Movimento 5 Stelle, Cancelleri, a tra poco. Mattino. Non è assolutamente vero che non c'è politica dei contenuti. Tutti i partiti che si sono presentati alle elezioni sono dei partiti socialisti, ci sono i socialisti nazionalisti, che non chiamerò nazionalsocialisti, e poi ci sono i socialcomunisti di vecchia tradizione, tutti intenti a mungere i produttori di ricchezza, ridistribuire i soldi munti e comprare voti, soprattutto i voti di chi nella vita non ha mai prodotto nulla. Un po' ingeneroso, eh? Sentiamo Franco. Un po' classista, diciamo. Sì. Sentiamo Franco dalla provincia di Pistoia. Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Sente? Sì, sì, sì, vada, sì, vada. Sentiamo. Allora, niente, io praticamente volevo dire da toscano che non è paragonabile, secondo me, il voto emiliano, come non lo sarà quello toscano, con il resto d'Italia, per un motivo. La raccolta voti del PD in queste due regioni ha un sistema capillare che da toscano, e interessandomi di politica da un po' di anni a livello regionale, comunale, mm-hmm, provinciale, diciamo che è un sistematico da in ogni comune. Quindi innanzitutto il voto regionale risente molto del voto amministrativo, perché è ovvio, alle amministrazioni di sinistra, e qui, quindi lei in pratica ci dice, mi scusi, lei in pratica ci sta dicendo, non confondiamo il voto dell'Emilia Romagna, storicamente regione rossa, così come il voto che esatto, ci sarà a breve in Toscana, perché queste sono due regioni dove il Partito Democratico ha storicamente una presenza capillare, il che non è per esempio nel sud, è quello che ci vuol dire. Sì. Esatto, una presenza capillare, che intendo che nei comuni, in comuni di 7.000 sì, abitanti, ci sono quattro circoli arci, sì, ha un sistema allora, capillare. Franco mi permette, allora la sua analisi reggerebbe se non fosse che in realtà nei piccoli comuni e nei comuni almeno fino ai 5.000 abitanti ha stravinto la Borgonzoni, mentre invece il Partito Democratico ha stravinto nelle città e nei, esatto, capoluoghi di provincia. E quindi città, io ho l'impressione che questa lettura non funzioni più. Poi vedremo ovviamente cosa succederà. Tra l'altro, certo, c'è un'interessante analisi di Giancarlo Giorgetti, che è la testa più lucida della Lega, il vice segretario federale del partito guidato da Salvini, e l'intervista fatta da Ugo Magri, la leggo dal Secolo XIX, è titolata così: Zingaretti è il vincitore, noi siamo stati poco efficaci con i ceti borghesi, che conferma appunto quello che stavi dicendo, Simone, vale a dire nei piccoli centri, quelli da 3.000, 4.000, 5.000 abitanti, dove Salvini ha fatto una campagna capillare, Borgonzoni ha vinto a mani basse. È nelle città, e Giorgetti in questa intervista lo sottolinea quattro volte, è nelle città che la Lega non passa, e per questo lui dice Zingaretti è il vincitore. Tra l'altro volevo anche rispondere a un ascoltatore che mi chiede: ma vorrei pensare che oltre al flop dei 5 Stelle, le sardine, il citofono di Salvini, ci sia stata anche un'ottima campagna elettorale di Bonaccini. Ma certo, la campagna elettorale di Bonaccini è stata eccellente, e tra l'altro questa mattina su Repubblica Ilvo Diamanti, il politologo Ilvo Diamanti, comincia a chiedersi, dice, ma non è che sta tornando l'apprezzamento per chi sa fare, cioè per chi è capace di governare, la gente vota per i risultati? Sarebbe molto bello se da una chiave locale questo valesse anche da una chiave nazionale, anche perché a questo punto questo governo qualcosa deve fare. Ah beh sì, e ne abbiamo un rappresentante qua, un esponente di questo governo, Giancarlo Cancelleri, che è vice ministro alle infrastrutture e ai trasporti ed è del Movimento 5 Stelle. Cancelleri, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Senta, prima di farle qualche domanda sul suo ruolo, che è appunto quello di vice ministro delle infrastrutture, alle prese con una cosa fondamentale come la scelta revocare o meno le concessioni ad Autostrada, io sarei curiosa di capire che cosa bolle nella pentola del Movimento 5 Stelle, perché ieri a caldo, e Giuseppe Conte non fa le cose a caldo, il Presidente del Consiglio si è affrettato a far sapere che lui in fondo sarebbe pronto a fare il federatore di un contenitore progressista, l'ha definito così, che guardi al Movimento 5 Stelle, al Partito Democratico. Beh, oggi La Verità in prima pagina strilla addirittura: Conte si prepara al terzo governo e strizza l'occhio a Forza Italia. Questo forse non è proprio ancora nei progetti del Premier. Tuttavia, un Conte federatore, è questo il ruolo? E a voi dei 5 Stelle starebbe bene? Ma quello che è il ruolo del presidente Conte, onestamente, lo deciderà lui. Io lo vedo come presidente del Consiglio in questo momento e mi rapporto a lui in questo. Noi secondo me abbiamo un problema di identità, in questo momento la dobbiamo ritrovare, per cui prima di parlare di un movimento che appartenga ad una federazione o meno, prima dovremmo capire come e cosa dovremmo continuare a fare, perché gli stati generali stanno diventando sempre di più un momento in cui dobbiamo rimettere a fuoco quello che è il nostro orizzonte. Forse troppi anni e troppe battaglie portate a casa e che sono diventate leggi di questo Stato hanno svuotato di contenuti un movimento che adesso si ritrova a fare conti con se stesso. Quindi la grande sconfitta, il fallimento di queste elezioni regionali, perché a me non piace nascondermi dietro nessuna parola, chiamo le cose per quello che sono, è stato chiaramente un fallimento politico da parte nostra, prendiamoci la giusta responsabilità di quello che è accaduto. Oggi dobbiamo avere però la bella responsabilità di ripartire, però, e dobbiamo ripartire chiaramente dai temi. Quindi prima ci riprendiamo una identità alternativa, che è quella appunto che appartiene propriamente al Movimento 5 Stelle, e poi potremo decidere se appartenere ad un campo riformista oppure continuare ad essere il movimento che, al di là delle ideologie, poi sceglieva le idee che erano quelle buone o quelle meno buone, ecco, insomma, facendo una cerchia su questo. Quindi una rifondazione a partire dai temi, dice lei. È vero, Cancelleri, che fare una rifondazione a partire dai temi, nel momento nel quale sei in un governo nel quale tutta una serie di cose sono già avviate sostanzialmente e hai una controparte di governo, un partner di governo che per certi versi è anche una controparte, che è il Partito Democratico, che in questo momento ha in mano il pallino, ha in mano la scena politicamente, per quanto ovviamente i numeri in Parlamento dicano altro rispetto a voi, non è facile, insomma, e vorrei capire come intendereste farlo. Ma guardi, se in politica ci fosse qualcosa di facile, la politica sarebbe davvero inutile. Invece la politica è una questione di difficoltà, affronta le difficoltà appunto del contrapporre idee dell'uno nei confronti degli altri. Col Partito Democratico, ma per carità anche con Italia Viva, con gli altri che fanno parte del governo, c'è un dibattito spesso molto acceso, molto serrato, non è uno scontro, però sicuramente è un grande confronto sulle concessioni autostradali, sulla prescrizione. In questi giorni oggi in aula ci sarà chiaramente un grande dibattito sulla questione delle prescrizioni. Non siamo d'accordo, ci sono delle differenze all'interno di questa maggioranza che sono molto forti. Però quando l'ex ministro della giustizia e vice segretario del Partito Democratico Orlando parla di prescrizione e dice l'asse del governo adesso cambi, si rinunci all'armamentario dei 5 Stelle, vi dice sostanzialmente sulla prescrizione buona fede, venga più miti consigli. Quali potrebbero essere questi più miti consigli? Su che cosa potreste trovare un accordo riguardo alla prescrizione? Quale può essere la mediazione, il punto di mediazione? Beh, onestamente ho passato il pomeriggio ieri a cercare di capire cosa volesse intendere Orlando, perché se addirittura tutto il pomeriggio, Cancelleri, no? Ma è chiaramente un paradosso. È chiaramente una battuta, però, guardi, ce lo chiediamo anche noi, infatti gliel'ho chiesto quando dice rinunci al suo armamentario. Rinunciare all'armamentario sulla prescrizione significa tornare al modello di prescrizione che aveva disegnato proprio lui, Orlando. Voi potreste tornare a quello? Assolutamente no, la riforma della giustizia va avanti e ricordo a Orlando con grande simpatia che noi siamo il partito di maggioranza relativa e che non è che il fatto di avere preso una batosta in Emilia Romagna cambia i numeri all'interno del Parlamento nazionale, cioè siamo sempre la prima forza all'interno col 73%, ci abbiamo oltre 300 parlamentari e facciamo chiaramente del confronto, perché non siamo mai chiusi al riccio, però è chiaro che questa cosa era stata concordata da tempo, si va avanti tutto quanto. Se vorranno sedersi attorno a un tavolo per cercare di capire quelle che sono praticamente le possibilità, siamo ben pronti a farlo, ma questo avviene anche con le concessioni autostradali, dove in questo momento c'è una parte del governo che non è d'accordo alla revoca, noi stringiamo invece per quello, si continuerà ancora a dibattere per trovare soluzioni migliori. Oggi il Messaggero però... scrive, oggi il Messaggero scrive che la revoca è andata in soffitta, che non ci sarà, ci sarà una maxi multa, ma non ci sarà la revoca. Ma io sento parlare di maxi multe già da qualche settimana, che poi vengono ciclicamente e puntualmente smentite, vediamo cosa succederà. Certo è una cosa, per me la multa va fatta a chi contravviene a qualche regola, ma che comunque non porta danno né a sé né agli altri. Chi commette un omicidio stradale, secondo me, gli dovrebbe ritirare la patente. Poi, per carità, fatto un parallelismo autostradale. Quindi lei continua a spingere per la revoca ed è convinto che si andrà alla revoca della concessione per autostrade? Io spingo, come spinge il movimento, ovviamente, verso quella direzione. Sono convinto, dico, in questi anni ho imparato che la convinzione in politica conta davvero poco, dobbiamo batterci affinché quella cosa avvenga. E se non avvenisse, se non ci fosse, se alla fine si arrivasse a un accordo che non porta alla revoca? Questo non lo so. È possibile, innanzitutto è possibile un accordo di questo tipo, Cancelleri? Ma io lo vorrei vedere formalizzato, dopo mesi che si parla di revoca, rescissione, caducazione. Adesso andiamo lì e gli facciamo una multa, cioè, mi sembrerebbe davvero banale una roba del genere. E torno a ripetere, secondo me in questo momento non è contemplato nelle intenzioni di questo governo. Ho sentito parlare di commissariamento, ho sentito parlare comunque di tutta una serie di cose, però volte al fatto che andiamo a togliere ad Atlante, andiamo a togliere ad Asti quello che è il pallino della situazione. Che oggi rispunti nuovo l'ipotesi di una maxi multa che fra l'altro era tramontata e abbandonata dagli stessi. Ma che l'avevano mi scusi Cancelleri, ripeto la domanda, è possibile che si arrivi che non si arrivi alla revoca? Per noi no, però per carità potrebbe accadere, dico, però potrebbe accadere perché voi siete in una specie di cul-de-sac e piuttosto che far cadere il governo su questo ci rimanete al governo. No, non la metterei in questo modo, perché altrimenti secondo me stiamo sbagliando la prospettiva. Cioè, qui è una questione che dobbiamo dare ai cittadini una risposta molto seria. Ormai dal profondo sud al profondo nord parlano tutti di queste congestioni autostradali. La maggior parte dei cittadini magari su quelle autostrade non ci ha mai messo neanche piede, però ne conoscono tutti profondamente la vicenda e sanno l'ingiustizia che è stata causata da queste persone e da quello che è avvenuto sui falsi report, le gallerie da quali si staccano massi da 2 tonnellate e tutto quanto. Per cui la questione adesso diventa revoca sì o revoca no. Noi stiamo spingendo affinché un atto di giustizia sociale venga fatto. Poi è chiaro che abbiamo preparato anche il dopo, come gestiremo, come verranno salvati i livelli occupazionali. Ci abbiamo fatto già tutto il progetto e tutto il programma. Bisogna discuterne in questo momento, torno a dire, nessuno sta mettendo in campo le fughe giornalistiche in avanti, ovviamente poi saranno sicuramente frutto di discrezioni dell'uno e non dell'insieme, perché in questo momento il governo sta ancora seduto al tavolo e sta ancora decidendo, nessuna decisione è ancora stata presa e questa è la cosa più importante, quindi che si tratti di maxi multe, di revoche, ancora se sta discutendo. Senta, quanto tempo è passato con i rinvii? Tanto. Si è anche detto che questo Conte bis era il governo dei rinvii, tutto aspettando il voto in Emilia soprattutto. Vi potete permettere un immobilismo che perduri, nel senso che il timore, sono molto franca, guardi Cancelleri, tanto anche i nostri ascoltatori lo sanno, il timore, il terrore di andare alle urne potrebbe provocare un immobilismo, soprattutto tra voi del Movimento 5 Stelle che state, come diceva giustamente lei, ancora ragionando su quella che è la vostra prossima stagione. Quindi un governo immobile, sostanzialmente frenato dalla paura di andare a votare e che combina poco niente e rinvia molto. è uno scenario possibile? Lo temete? Io credo che non sia uno scenario possibile, invece, cioè non è uno scenario contemplabile, ma semplicemente per un motivo. Questo governo credo che abbia fatto fin dal primo giorno, cioè da settembre del 2019, dell'interventismo, del modo di entrare direttamente in azione, cioè la sua probabilmente prima caratteristica. Abbiamo affrontato determinati temi, determinati problemi che avevamo trovato anche dal governo quello immediatamente precedente, e oggi ci siamo ritrovati praticamente ad avere, dopo 4 mesi già sul tavolo c'è il dossier chiaramente della revoca per esempio delle concessioni autostradali, che voglio dire, in 4 mesi istruirlo e metterlo in piedi non è una roba semplicissima, però abbiamo affrontato tantissime altre cose, compresa una legge di bilancio che in molti dicevano che non saremmo riusciti a chiudere, in tanti dicevano che avrebbe contenuto solo il taglio dell'IVA, e nessuno, tranne soltanto noi, sostenevamo che invece oltre al taglio dell'IVA avrebbero messo tante cose buone. E oggi c'è il taglio del super ticket, il taglio del cuneo fiscale, ci sono una serie di incentivi per la rottamazione, l'eco bonus, il sisma bonus, il mare bonus, cioè, insomma, ci sono tantissime cose che secondo me sono andate bene e non abbiamo toccato tutto quello che di buono si era fatto in precedenza, per cui dico, per me un governo attendista, poi da attendere che cosa? Gli stati generali, ma certamente non sarà il movimento a far attendere il governo per gli stati generali, noi continuiamo ancora ad andare avanti perché gli organi nostri interni sono diciamo il capo politico, tutto quanto, sono lì in piedi, in funzione e continuano a lavorare. C'è un governo fatto di ministri, di viceministri, di sottosegretari che ogni giorno continuano a lavorare per portare a casa tutte quelle che sono le proposte buone per gli italiani. Stiamo insomma facendo veramente il massimo, ecco. Cancelleri, imputa al fatto di stare al governo prima con la Lega e poi col Partito Democratico questo, quello che lei stesso ha definito un fallimento dal punto di vista elettorale? Guardi, chi dà le colpe agli altri evidentemente vuol dire che non sa guardarsi dentro. È chiaro che il problema è solo e semplicemente nostro. No, ma non sono gli altri. No, ho detto imputate al fatto di essere stati al governo. Cioè non sto dicendo che siano la Lega e il PD che vi hanno... Parlo di voi proprio, dato che anche lei c'è stato al governo e c'è tuttora, quello che dico, sì. Questo fatto di stare al governo, se vi ha danneggiato, se imputa a questo il fatto di aver perso così pesantemente. Io credo che dobbiamo ritornare un po' sulle piazze, dobbiamo di nuovo riaccendere l'entusiasmo fra le migliaia di attivisti che abbiamo, ce ne sono tantissimi che continuano, secondo me molti... Ma lei lo farebbe il capo politico dei 5 Stelle, Cancelleri, si candida? No, io non mi candido assolutamente, cioè vorrei chiaramente vedere un progetto più corale e siccome sono uno di quelli che ha sempre sostenuto che le leadership non si votano, le leadership sono naturali, io vorrei vedere intorno diciamo ad una figura crescere l'entusiasmo. Poi però posso dire una cosa, non è cambiando Luigi Di Maio con un altro Luigi Di Maio o con un'altra persona che risolviamo il problema, perché se fosse soltanto quello lì Luigi avrebbe fatto un passo indietro da tantissimo tempo. Cioè, qui dobbiamo rivedere proprio anche... A questo proposito, Cancelleri, 4 elettori del Movimento 5 Stelle su 10 hanno votato per Bonaccini in Emilia Romagna. Quella che era la classe operaia che si era avvicinata al Movimento 5 Stelle è tornata anche al Partito Democratico. Nelle prossime tornate elettorali, la Liguria, la Toscana, la Puglia, voi avete già dei candidati, ma vi conviene? È utile continuare a candidare persone che evidentemente poi non riescono ad attrarre voti e i voti vanno comunque al vostro alleato Partito Democratico, o non vi conviene invece ufficializzare un patto col PD? No, vede, allora, quello che è successo in Calabria e quello che è successo in Emilia Romagna, chiaramente con tutto il rispetto per i nostri candidati a cui va il mio più grande affetto, la mia più grande stima, li ho conosciuti sia Benini che Aiello, non li conoscevo, li ho conosciuti durante la campagna elettorale, devo dire, delle persone formidabili, però il tema di fondo è uno. noi non avevamo un progetto per quelle regioni, e purtroppo magari è duro ammetterlo, ma io lo faccio senza troppi problemi. Perché quando lo abbiamo avuto, noi abbiamo raccontato attraverso le campagne elettorali che un'altra regione era possibile, ma io ricordo a me stesso che con me in Sicilia siamo arrivati davvero al 36%, cioè ad un passo così dalla presidenza della regione. Anche Andrea Greco ha avuto la stessa possibilità, arrivando addirittura al 39%, ad un'incollatura proprio dietro a chi è che ha vinto. Poi ovviamente ci sono purtroppo delle altre questioni, delle altre regioni, delle altre realtà dove non abbiamo costruito un progetto. Allora dico questo, in Puglia, in Liguria, con Antonella Laricchia, con Alice Salvatore, secondo me noi abbiamo raccontato ai pugliesi e ai liguri un progetto alternativo, abbiamo delle idee di come poter andare a gestire, vediamo quello che succede. È chiaro che magari non arriveremo in altro, non arriveremo ad un'incollatura da chi è che sta vincendo, magari non vincerò, però niente patto, nessun patto col PD. Almeno secondo Cancelleri. Dobbiamo veramente chiudere. Grazie a Giancarlo Cancelleri, vice ministro delle infrastrutture del Movimento 5 Stelle. Cara Maria, ci risentiamo domani alle 8:20. A domani, ciao a tutti. Grazie a Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione. A tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo domani alle 6:30. Simone Spezia, una buona giornata. Ciao.